Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Agalbato legge Bel Ami di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. Il signor Forestier, per favore. Al terzo piano, la porta a sinistra. Il portinaio aveva risposto premurosamente, lasciando trasparire nella voce la considerazione in cui teneva il proprio inquilino. E Georges Duroy prese a salir le scale. Era un po' impacciato, intimidito, a disagio. Portava l'abito da società per la prima volta in vita sua e l'insieme dell'abbigliamento lo preoccupava. Saliva lento gli scalini, col batticuore, pieno d'ansia, assillato soprattutto dal timore d'essere ridicolo. E di colpo gli si parò davanti un signore elegantissimo che stava guardandolo, così a faccia che Duroy arretrò d'un passo per poi fermarsi stupefatto. Era lui in persona, riflesso da un'alta specchiera verticale che apriva sul pianerottolo del primo piano la lunga prospettiva di un corridoio. Sussultò d'improvvisa gioia, trovandosi infinitamente migliore di quanto supponeva. Poi, allungata la mano verso il campanello, suonò. La porta si aprì quasi subito e si trovò al cospetto d'un domestico in abito nero, grave, sbarbato, così inappuntabilmente vestito che di nuovo Duroy si turbò senza riuscire a capire d'onde gli venisse quel vago patema. Da un inconscio confronto, forse, fra il taglio dei loro abiti. Quella che calzava scarpe di copale, domandò nel prendere il soprabito che Duroy teneva sul braccio per tema che se ne vedessero le macchie, «Chi devo annunziare?» e lanciò il nome oltre una portiera sollevata in un salotto dove pur era gioco forza entrare. Perduta di colpo ogni baldanza, Duroy si sentì paralizzato dal timore, col cuore in gola. Stava per compiere il suo primo passo nell'esistenza tanto attesa, sognata. Tuttavia varcò la soglia. Una giovane donna, bionda, era lì in piedi ad aspettarlo, sola, in una grande stanza ben illuminata e piena di piante come una serra. Si fermò di colpo, completamente sconcertato. Chi era quella signora che gli stava sorridendo? Poi si ricordò che Forestier era sposato e al pensiero che quella bella ed elegante biondina poteva essere la moglie dell'amico, finì col perdere del tutto le staffe. Barbugliò: «Signora, io sono...» «So già», disse lei porgendogli la mano. «Charles m'ha detto del vostro incontro di iersera e sono proprio felice che abbia avuto la buona ispirazione di pregarla di cenar con noi quest'oggi». Lui arrossì fino agli orecchi, non sapendo più che dire. Si sentiva esaminato, ispezionato da capo a piedi, soppesato, giudicato. Il campanello aveva squillato di nuovo. Il domestico annunziò: «La signora de Marel». Era una bruna, un po' minuta, quel che si dice una brunetta. Entrò tutta pepe, disegnata, modellata da capo a piedi, avresti detto, nell'abito scuro semplicissimo. Soltanto una rosa rossa, appuntata fra i capelli neri, attirava violenta lo sguardo. Pareva dar più spicco alla fisionomia, sottolinearne l'originalità, porvi quel tanto di vivacità un po' brusca che ci voleva. La seguiva una bambina col gonnellino corto. La signora Forestier le mosse incontro di slancio. «Buonasera, Clotilde!» «Buonasera, Madeleine!» S'abbracciarono. Poi la piccina porse la fronte con la naturalezza d'un'adulta, dicendo: «Buonasera, cugina!» La signora Forestier la baciò. Poi fece le presentazioni. «Georges Duroy, un caro compagno d'armi di Charles. La signora de Marel, mia amica, e anche un poco mia parente». Aggiunse: «Vi avverto, niente cerimonie da noi, tutto alla buona e senza pose. Intesi, vero?» Il nostro giovane s'inchinò, ma la porta s'aprì di nuovo e un tombolotto, basso e tondo, apparve dando il braccio ad una bella donna slanciata, più alta di lui, molto più giovane, di modi distinti e grave nel portamento. Era Walter, deputato, finanziere, quattrinaio e affarista, ebreo e meridionale, direttore della Vie Française, e sua moglie, nata Basile Ravalot, figlia del banchiere omonimo. Poi comparvero l'uno dopo l'altro Jacques Rival, elegantissimo, e Norbert de Varenne, col collo della marsina lustro, incerettato dallo strofinio della zazzera che gli ricadeva sulle spalle, cospargendole di bianche squamette di forfora. A sua volta entrò Forestier, scusandosi del ritardo. Era stato trattenuto al giornale dal caso Morel. Morel, deputato radicale, aveva presentato un'interpellanza al governo su una richiesta di credito relativa alla colonizzazione dell'Algeria. Il domestico annunziò ad alta voce: «Signora, la tavola è servita!» E si passò nella sala da pranzo. Duroy era seduto fra la signora de Marel e sua figlia. Si sentiva di nuovo impacciato, timoroso di commettere qualche sbaglio nel maneggio convenzionale della forchetta, dei cucchiai o dei bicchieri. Ce n'erano quattro bicchieri, uno dei quali azzurrino. Cosa mai ci si poteva bere in quello? Nessuno disse una parola finché si fu alla minestra. Poi Norbert de Varenne domandò: «Avete letto del processo Gautier? Che caso curioso!» E si cominciò a discutere su quell'adulterio complicato da ricatto. Mica se ne parlava come si parla in casa degli avvenimenti letti sul giornale, ma come si parla d'una malattia fra medici o d'ortaggi tra fruttivendoli. Nessuno si indignava, si stupiva dei fatti, se ne indagavano le cause profonde, occulte, con curiosità professionale e assoluta indifferenza per la colpa in sé. Duroy non osava metter bocca. Posava ogni tanto gli occhi sulla vicina di tavola, ammaliato dalla rotondità di quel seno. Un brillante, a capo d'un filo d'oro, le pendeva giù dall'orecchio come una goccia d'acqua rotolata sulle carni. Di tratto in tratto, costei interveniva con un'osservazione spiritosa che non mancava di suscitare un sorriso sulle labbra di tutti. Era dotata d' un'arguzia piacevole, garbata, sempre imprevista, l'arguzia d'una birichina smaliziata che non dà troppo peso alle cose e le giudica con lieve e bonario scetticismo. Il chiacchierio che procedeva ininterrotto, agganciando le idee l'una all'altra, saltando di palo in frasca per una parola qualsiasi, per un non nulla, dopo aver compiuto un giro d'orizzonte su tutti i fatti del giorno e dopo aver sfiorato di sfuggita mille problemi, tornò sull'importante interpellanza di Morel circa la colonizzazione dell'Algeria. Georges Duroy aprì la bocca e disse, sorpreso dal suono della propria voce, come se l'udisse per la prima volta: «Quel che manca laggiù, più che altro, sono dei buoni terreni. I fondi veramente fertili sono cari come in Francia e vengono comprati dai ricconi di Parigi a titolo di investimento. I coloni autentici, i poveracci, quelli che emigrano per trovare un tozzo di pane, vengono respinti nel deserto dove non nasce nulla per mancanza d'acqua». Lo guardavan tutti quanti. Sentì un rossore salirgli alle guance. Walter gli domandò: «Lei conosce l'Algeria?» Rispose: «Sì, ci sono stato 28 mesi, fermandomi a lungo in ciascuna delle tre province». Poi, d'improvviso, lasciando perdere il caso Morel, Norbert de Varenne gli chiese una precisazione su una certa usanza appresa da un ufficiale. Si riferiva all'Omzab, la strana repubblichetta araba sorta nel cuore del Sahara, nella zona più arida di quelle terre bruciate. Duroy era stato due volte nell'Omzab e accennò ai costumi di quel singolare paese, dove ogni goccia d'acqua vale tant'oro, dove ogni abitante è tenuto a tutti i servizi pubblici, dove la probità commerciale è tanto più rigorosa che non tra i popoli civili. Parlò con una certa facondia, un po' smargiassa, eccitato dal vino e dal desiderio di piacere. Raccontò aneddoti di vita militare, tratti caratteristici di vita araba, avventure di guerra. Trovò perfino qualche parola colorita per descrivere quelle contrade gialle e nude, desolate a perdita d'occhio sotto la vampa vorace del sole. Le donne gli tenevano tutte gli occhi addosso. La signora Voltaire mormorò con la sua voce posata: «Lei, coi suoi ricordi, potrebbe mettere insieme una bella serie d'articoli». Allora Voltaire squadrò il nostro giovanotto con un'occhiata di sulle lenti, come usava fare quando voleva esaminar bene un volto. Di sotto le lenti, invece, sbirciava le portate. Forestier colse la palla al balzo. «Caro direttore, proprio questo pomeriggio le ho parlato di Georges Duroy, pregandola di assumerlo come mio aiuto nel servizio informazioni politiche. Da che Marambot ci ha lasciato, non ho più nessuno da mandare a prendere informazioni urgenti e confidenziali, e il giornale ne soffre». Sì, Voltaire si fece serio e si alzò fin sulla fronte gli occhiali per guardar bene in faccia Duroy, poi disse: «Ma certo, Duroy ha un suo talento originale. Se vorrà venire a parlare con me domani alle 3, sistemeremo la cosa». Poi, dopo una pausa, e rivolgendosi direttamente al nostro giovanotto, aggiunse: «Però ci dovrà far subito una serie d'articoli di fantasia su quelle terre. Parli dei suoi ricordi personali, ficcandoci in mezzo, come ha fatto poco fa, il problema della colonizzazione. È un argomento d'attualità, di scottante attualità, e son certo che piacerà molto ai nostri lettori. Ma faccia presto. Mi occorre il pezzo per domani o posdomani, mentre si sta discutendo alla Camera, per agganciare il pubblico». La signora Voltaire, con la contegnosa grazia che poneva in ogni suo atto e che conferiva un tono di degnazione alle sue parole, notò: «Lei ha già un bellissimo titolo, Ricordi d'un cacciatore d'Africa. Vero, signor Norbert?» Il vecchio poeta, giunto tardi alla notorietà, detestava e paventava qualsiasi nuovo venuto. Rispose asciutto: «Certo, ottimo addirittura, purché il seguito poi si mantenga intonato, giacché il difficile sta proprio qui, conservare il tono giusto, quel che in musica si dice la giusta intonazione». La signora Forestier avvolgeva Duroy d'un sorridente sguardo protettore, uno sguardo da intenditrice che pareva dire: «Sì, farai strada tu». La de Marelle s'era voltata spesso verso di lui e il brillante le tremolava di continuo all'orecchio, come se la delicata goccia d'acqua fosse lì lì per staccarsi e cadere. La bambina se ne rimaneva immobile e seria, col capo chino sul piatto. Intanto il domestico stava facendo il giro della tavola, mescendo nei bicchieri cilestrini vino di Johannesburg, e Forestier brindò, rivolto a Voltaire: «À la vie française, alla sua lunga prosperità!» Tutti si inchinarono al padrone, che sorrideva, e Duroy, in cimberli per il trionfo, tracannò d'un fiato il bicchiere. Avrebbe vuotato allo stesso modo un barile intero, ne era certo. Avrebbe divorato un bue, strangolato un leone. Si sentiva nelle membra un vigore sovrumano, nell'animo una risolutezza a prova di bomba e una sconfinata speranza. Si trovava nel suo adesso fra quella gente. Vi si era inserito, vi aveva conquistato un posto. Il suo sguardo si posava sui volti con una sicurezza nuova. E per la prima volta osò rivolgere la parola alla sua vicina di tavola. «Non ho mai visto, signora, un paio d'orecchini più belli dei suoi». Lei si voltò sorridendo. «Già, È stata un'idea mia lasciar ciondolare così dei brillanti, appesi semplicemente ad un filo. Sembrano due gocce di rugiada, vero? Lui mormorò confuso dalla propria audacia e col tremore di dire una sciocchezza: sono stupendi, ma non è anche merito dell'orecchio? Lei lo ringraziò con uno sguardo. Uno di quei luminosi sguardi femminili che ti vanno dritti dritti al cuore. Voltandosi, Duroy incontrò di nuovo gli occhi della signora Forestier, ancora pieni di simpatia per lui, ma con in più, gli parve, una maggiore vivacità, una certa malizia, un incoraggiamento. «Prende un caffè, signor Duroy?» E la signora Forestier gli porse una tazzina colma, con quel sorriso amichevole che non abbandonava mai le sue labbra. «Sì, signora, grazie!» Prese la chicchera. E mentre pieno d'angoscia stava chino per afferrare con le mollette d'argento una zolletta dalla zuccheriera recatagli dalla bambina, la giovane signora gli disse sottovoce: «Su, faccia un po' di corte alla signora Voltaire!» Poi s'allontanò, senza lasciargli il tempo di risponderle una sola parola. Duroy beve il caffè che temeva di rovesciare sul tappeto, poi, liberatosi di quella preoccupazione, cercò un pretesto per avvicinare la moglie del suo nuovo direttore e attaccar discorso. Accortosi che costei aveva ancora in mano la tazzina vuota e che, non avendo un tavolino a portata di mano, non sapeva dove posarla, si precipitò. «Permette, signora?» «Oh, grazie!» Portò via la tazzina e tornò. «Sapesse, signora, quanti bei momenti ho passato con la Vie Française, laggiù nel deserto. È proprio l'unico giornale che si possa leggere fuori di Francia, perché più letterario, più spiritoso e meno monotono d'ogni altro. Ci si trova di tutto dentro!» Lei sorrise con garbato distacco e rispose grave: «Mio marito ha dovuto penar molto per creare un giornale così capace di rispondere alle nuove esigenze.» E presero a conversare. Poi, dato che stava avvicinandosi Norbert de Varenne con un bicchierino di liquore in mano, Duroy s'allontanò per discrezione. La signora de Marelle, che fino a quel momento s'era intrattenuta con la signora Forestier, lo chiamò. «E così», gli disse di punto in bianco, «ci diamo al giornalismo, eh?» Duroy parlò allora dei suoi progetti in termini alquanto vaghi. Poi ripeté con lei i discorsi tenuti un momento prima con la signora Voltaire, ma questa volta facendo miglior figura, giacché possedeva meglio l'argomento e poteva ripetere come farina del suo sacco tutto quanto aveva or ora udito. E, quasi a dare un senso più profondo alle proprie parole, non staccava un attimo gli occhi da quelli della sua vicina. D'un tratto, senza alcun motivo, la signora de Marelle chiamò «Lorin!» e la bambina accorse. «Siediti qua, piccina mia, piglierai freddo accanto alla finestra!» E a Duroy venne una voglia matta di dare un bacio alla ragazzina, come se qualcosa di quel bacio si fosse potuto riversare sulla madre. Con tono fra paterno e galante, le domandò: «Permette che le dia un bacio, signorina?» La bimba alzò gli occhi su di lui, piena di meraviglia. La signora de Marelle disse ridendo: «Rispondigli così. Per questa volta glielo permetto. Ma non ci prenda l'abitudine.» Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.